Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Bruxellando, Maridia ai microfoni, vi saluta e vi augura un'ottima serata in nostra compagnia. Sono particolarmente felice questa sera perché è anche il mio compleanno, quindi insomma mi fa piacere ricordarlo anche a tutti coloro i quali ci ascoltano. E saluto intanto Danielle dall'altra parte del vetro, saluto tutti voi, tutti coloro i quali continuano ad ascoltarci con grande entusiasmo, con tanta passione. Se Bruxellando è ancora qui, questa idea che è nata qualche anno fa, è proprio anche grazie a voi e grazie, come dico spesso, agli autori, agli artisti italiani che continuano a scrivere, a farsi strada, a farsi conoscere, perché come abbiamo detto già in un'altra puntata, c'è una cosa che è anche molto bella nel nostro programma, è che cerchiamo di raccogliere veramente l'eccellenza italiana, e penso che la trasmissione, o meglio le trasmissioni di quest'anno, ne abbiano effettivamente confermato le tendenze, soprattutto quelle che si sono sviluppate negli ultimi anni, di riuscire a catturare le personalità italiane di passaggio, a volte non solo, già residenti a Bruxelles. E allora questa sera penserete: che cosa ha fatto Maridì? È il suo compleanno, quindi sicuramente ha preparato qualcosa. Ebbene sì, avete ragione, ne parlo raramente perché, nonostante sia una mia grande passione, chi mi conosce sa che è così, perché l'Europa è una delle tematiche che più mi piace da sempre, perché la costruzione europea è un cammino che è stato avviato tanti anni fa, è stato avviato con delle basi sicuramente diverse da quelle della società di oggi, eppure credo sia importante parlarne, senza abusarne però, questa forse è una delle ragioni per le quali ne parlo raramente o comunque con una certa moderazione. Tra l'altro, come sapete, molto spesso preferisco non esprimersi su una serie di eventi internazionali, ma perché credo che questa probabilmente non è la sede più appropriata per parlarne. Però qualche tempo fa ho ricevuto un'email dal radio collega Diego Papaldo, quindi che saluto in questa serata speciale, il quale mi ha parlato di una sua amica professoressa all'Università del Sannio che veniva a Bruxelles a presentare un libro dedicato all'Europa. Poi ho scoperto che i libri da uno sono due, perché il primo è Europa, Europa, il secondo è La democrazia morbosa, e abbiamo cercato ovviamente di fare un'intervista proprio Sibley, quindi focalizzata su entrambe le edizioni. Ora spero che la memoria non mi tragga inganna, ma penso che il nuovo libro sia proprio Una democrazia morbosa, che è in uscita dopodomani, edito tra l'altro dalla casa editrice Carocci, cui vanno anche i nostri saluti. L'intervista è molto interessante perché secondo me ripercorre in una chiave moderna una serie di domande che tutti sicuramente si sono posti nel tempo, perché il soggetto stesso, ma meno male, così come è giusto che sia, apre a dibattiti interessanti. Quindi io ringrazio Monica Simeoni, le faccio un grosso in bocca al lupo, perché tra l'altro lavora nella mia terra di origine, sebbene, come sapete, io abbia origini salernitane, mentre Monica lavora presso l'Università del Sannio, quindi un po' diciamo Benevento, quindi un'altra zona. Vi ovviamente consiglio di acquistare questo libro, perché ne vale la pena, perché vi posso assicurare che i contenuti sono scritti in una maniera non solo intelligente, ma anche ben focalizzati a quelle che sono le tematiche odierne, perché come dicevamo prima, il fatto che si possa abusare di alcune tematiche è anche dovuto all'utilizzo improprio di alcuni termini. Allora noi siamo partiti proprio da là, abbiamo focalizzato l'attenzione proprio sul chiarire dei concetti, e non vi stupite se abbiamo deciso questo approccio, perché un libro, o meglio due libri di Monica Simeoni, della professoressa Monica Simeoni, meritavano comunque un'analisi molto specifica. Non mi dilungo oltre, quindi vi lascio l'intervista che Monica ha rilasciato ai nostri microfoni. Saluto Dani M in regia, Fiordaliso e George, che animeranno la seconda parte della trasmissione con un ospite ugualmente molto interessante. Quindi restate con noi, restate con Radio Alma, restate con Bruxellando, e soprattutto buona settimana a tutti, perché insomma la primavera finalmente è nell'aria. Radio Alma, Maridì, Bruxellando. A presto. Sono particolarmente contenta perché abbiamo qui con noi a Radio Alma Monica Simeoni, la quale è ricercatrice e docente di sociologia presso l'Università del Sannio a Benevento. Monica è qui con noi per raccontarci di due saggi, uno dal titolo Una democrazia morbosa, l'altro Europa Europe, entrambi, se ricordo bene, edito da Carocci Editore. Ora, Monica, se è d'accordo, io partirei col primo saggio, quindi Una democrazia morbosa, vecchi e nuovi populismi, e la domanda mi sorge spontanea, copiando una frase che non mi appartiene ma prendo volentieri in prestito. Perché questa democrazia odierna la definisci morbosa? Grazie, e cercherò di spiegare in poche parole un aggettivo complicato. In realtà l'aggettivo non è mio, una democrazia morbosa, ma è di uno dei più grandi filosofi e anche sociologi spagnoli, Ortega y Gasset, che nel 1917, quindi in anni particolari per l'Europa con i totalitarismi presenti, scrive un piccolo saggio, La democrazia morbosa, in cui spiega la sua opinione sulla democrazia. Ortega viene considerato un autore aristocratico, elitista, che considerava quasi in modo negativo il popolo, la plebe. Infatti in questo saggio definisce il popolo come la plebe, ma in realtà la sua aristocrazia non è un'aristocrazia elitaria contro le masse, perché uno dei suoi libri più famosi è La ribellione delle masse, ma capisce che la società moderna è la società delle masse, del popolo, un popolo che però deve cercare di elevarsi soprattutto con l'educazione, quindi non deve essere preda di concetti onnicomprensivi che possono anche essere negativi. Quindi in questo senso lui definisce la democrazia sicuramente un aspetto positivo, perché è la modalità della società moderna di quegli anni, però potrebbe anche essere pericolosa se l'uomo medio, questa è la sua importante riflessione, non cerca di capire il valore positivo della democrazia e si adagia su risposte che possono essere risposte date da altri, e quindi non cerca di educarsi e di rendersi protagonista positivo della società, ma si adagia. Un'ultima osservazione, usa un linguaggio ovviamente latino molto forte, dice attenzione che l'uomo non deve essere una pecora, cioè non deve seguire gli altri, ma deve avere una sua opinione, quindi deve costruire la democrazia e non deve subire la democrazia. Quindi attenzione, perché la democrazia è sicuramente positiva, ma può essere anche negativa se io non ne divento protagonista e ne divento vittima. Ecco, questa è un pochino la spiegazione di questo titolo, che mi sembrava utile per spiegare anche lo sviluppo, ahimè, della democrazia contemporanea, collegata quindi anche a un altro concetto di cui forse parleremo dopo, il populismo. Assolutamente sì, quindi veniamo invece più nel preciso a questo tuo saggio fresco di stampa, Europa, e ti ringraziamo perché siamo a Bruxelles, quindi mi sembra che il tema sia oltremodo calzante. Quindi ci dicevi per l'appunto che c'è un concetto che si lega, purtroppo per noi, scusami se dico purtroppo, ma probabilmente sei d'accordo con me, che è il concetto di populismo, che pure da quello che raccontavi poc'anzi mi sembra si sia poi poco felicemente incontrato col concetto di democrazia dal mio punto di vista, ma in realtà questo è avvenuto. Quindi ci puoi spiegare da dove viene questo concetto populismo e perché poi nella tua democrazia morbosa tu fai riferimento a vecchi e soprattutto ai populismi? Adesso in questi anni, e il mio è uno dei tanti, i miei testi sono uno dei tanti che sono usciti appunto sulla riflessione su perché le democrazie stanno nell'epoca contemporanea post-ideologica diventando delle democrazie populiste, e qui ci sono gli autori italiani nostri, ma anche francesi e anche americani del mondo anglosassone. Perché le democrazie stanno diventando populiste? Perché siamo in una società sicuramente post-ideologica, i partiti sono cambiati, sono in trasformazione, non solo nel nostro paese, la tematica e anche la discussione attuale, non solo della trasformazione dei partiti, ma addirittura delle ideologie, non ci sono più destra e sinistra, oppure più correttamente la destra e la sinistra indicano delle situazioni differenti. Quindi c'è una semplificazione del messaggio politico. E questa semplificazione del messaggio politico si basa sul arrivare direttamente al popolo, alla popolazione, all'uomo medio, come dicevamo prima. Quindi il populismo indica il popolo che diventa protagonista, ma potere per il popolo o dal popolo? Anche questa è una seria riflessione, la risposta è complicata, perché la risposta può essere diversa se il potere è per il popolo o se il potere è dal popolo, proviene dal popolo. Perché io dico vecchi e nuovi populismi? Perché in realtà i populismi originari nascono, è vero che nascono in Europa, soprattutto nascono in Russia e anche oltreoceano negli Stati Uniti. In Russia nascono con la cacciata degli zar, quando degli studenti a fine Ottocento cercano di arrivare ai contadini e quindi di spronarli a una libertà, e anche dal punto di vista politico, ma si voleva anche una riforma radicale, economica e politica. Quindi c'era una progettualità nel populismo russo, come nel populismo americano, che anch'esso nasce a fine Ottocento, ed è interessante che ci sono alcuni aspetti simili anche ad alcune forme di rivolta popolare in questi anni nel nostro paese. Ad esempio, dei piccoli allevatori americani nasce nel sud degli Stati Uniti, che si ribellavano alle grandi banche americane, addirittura rifiutavano, dopo l'unificazione tra il nord e il sud negli Stati Uniti, l'unificazione anche con la moneta, e volevano ritornare addirittura alla moneta, agli scambi in argento. Ricordiamo appunto, siamo a Bruxelles, la polemica non solo nel nostro paese ma anche in molti altri paesi contro l'euro. Quindi ci sono degli spunti in cui il messaggio politico cerca di semplificarsi e arrivare direttamente al popolo. Però perché molti autori sono critici nel dire che la trasformazione della democrazia contemporanea non è una, è troppo semplicistico dire che è populista, perché appunto nel populismo, come abbiamo visto, nella sua forma originaria, prima russa e poi americana, c'era una progettualità. Nelle forme attuali invece, che un po' le troviamo in tutti i partiti politici di populismo, è solamente molto spesso una rivolta, non c'è una progettualità. Possiamo citare anche molti partiti, cioè alcuni dei nostri partiti politici italiani, ma non solo italiani, appunto anche in Gran Bretagna, addirittura nei paesi del nord Europa ci sono delle spinte populistiche, cioè il rifiuto della complessità della politica tradizionale, che ormai ai cittadini non dice più nulla. Quindi c'è una semplificazione anche del messaggio politico, anche dello stesso linguaggio politico. E questa semplificazione anche è una banalizzazione anche delle risposte che molte volte si danno ai grossi problemi attuali, contemporanei. Alle ultime elezioni politiche in Europa quasi il 20% dei voti sono stati dati a partiti euroscettici ed eurocritici. Anche qui possiamo fare una differenza tra cosa vuol dire euroscettico ed eurocritico, perché eurocritico può essere ad esempio il partito di Syriza, di Tsipras, o anche Podemos, che rifiuta la troika, come sappiamo in questi giorni, però non vuole uscire dall'Europa e non vuole uscire dall'euro. Invece ci sono altre modalità di partiti più populisti, che rifiutano totalmente la stessa istituzione europea. Quindi anche questa parola populismo è una parola complessa, che indica sicuramente un disagio dei cittadini e della politica tradizionale, che non viene più riconosciuta dai cittadini, però in alcuni casi non indica delle risposte concrete, come invece i vecchi partiti populisti indicavano. E poi ultima cosa, ma quella è completamente differente, è il populismo di origine latinoamericana, il peronismo, ma qui entriamo in un altro campo che è ancora più complicato. È in un'altra dimensione che per il momento mi soffermerei a quello che sta accadendo in Europa. Però quindi io ho una curiosità, ne sentiamo parlare ormai da tempo. Molti sostengono che i nazionalismi ritornano. Quando penso ai nazionalismi, ahimè, mi si risvegliano non solo le conoscenze universitarie, ma una serie di incubi. E mi fermerei lì. Quindi, poiché il nostro pubblico probabilmente non è avvezzo alle tematiche di cui stiamo parlando questa sera, siccome lei affronta proprio il tema nel suo saggio, ci potrebbe finalmente chiarire la differenza tra nazione e nazionalismo? Ecco, anche questo è una buona domanda e la risposta è un po' complicata. Cerchiamo di chiarire alcune cose. Ecco, c'è una bella affermazione, io partirei dall'affermazione di Osborne, uno storico inglese morto alcuni anni fa, che indica questa, dice qui, afferma questo: dove la società fallisce avanza la nazione. Ecco, quindi ecco, direi che questa frase è proprio sintomatica per spiegare quello che sta succedendo ora. Un'Europa unita, come volevano Altiero e Spinelli, i redattori del manifesto di Ventotene, oppure più vicini a noi, anche dato che siamo a Bruxelles, Schuman, Delors, insomma tutti i grandi padri fondatori dell'Europa, era un'Europa federale, un'Europa non di nazioni contrapposte e isolate, piccole una contro l'altra, ma un'Europa di appunto un'Europa federata, per con quale obiettivo? Con l'obiettivo di sconfiggere le guerre, l'obiettivo di sconfiggere le guerre, quello che era successo dopo la seconda guerra mondiale, e quindi la nazione non era un ostacolo a tutto questo. Invece adesso sta succedendo purtroppo, e questo è un grosso problema, in fondo è questo uno dei vulnus per la costruzione, per l'avanzamento della casa europea cui le fondamenta ci sono, però i primi piani, ci siamo fermati al primo piano e chissà se speriamo insomma si possa avanzare, che ritorna il concetto della nazione chiusa in se stessa come reazione alla globalizzazione. No, si potrebbe usare un'altra parola, anch'essa molto di moda, globalizzazione, cioè l'avanzare ormai della globalizzazione, che è una realtà, fa avanzare anche la paura nei cittadini e la paura anche delle nazioni, che quindi in un progetto di Europa unita, in cui si sarebbe dovuta cedere anche una parte di sovranità nazionale, questo non sta avvenendo. E allora ci sono queste e riemerge appunto il nazionalismo, che è la sconfitta del progetto europeo, anche e soprattutto nelle ex, ad esempio, lo vediamo, nelle ex nazioni sorte dopo la caduta dell'Unione Sovietica, i nazionalismi dell'Est Europa, che anch'essi sono molto pericolosi per noi. Mi viene da pensare quindi, e la collego ad un altro dei concetti che ha sviluppato nel suo saggio, al problema dell'identità, che a quanto pare emerge soprattutto in alcune realtà. Però lei fa un passo in avanti, anche se, come sa, non sono un'esperta di sociologia, però parla di un concetto che mi ha colpito particolarmente, che è quello delle identità molteplici. Allora siamo a Bruxelles, dove, come sa, ci sono tante spinte, soprattutto che vanno verso alcune direzioni, laddove l'identità ad un'appartenenza linguistica, in questo caso, appare essere predominante e dirigere il paese in una direzione piuttosto che in un'altra. Ci racconta invece qual è la sua esperienza e la sua definizione invece di queste identità molteplici, cui fa riferimento nel saggio ugualmente. Sì, è vero, ci sono molte qui a Bruxelles, anche camminando per le strade, a seconda dei quartieri in cui uno è, ci sono tante identità. Qual è la vera identità? Probabilmente è difficile identificarla. E occorrerebbe ricordare uno degli studiosi morti da poco, uno dei più grandi sociologi, Ulrich Beck, che parlava proprio di questo concetto di identità molteplice, di una costellazione post-nazionale per quanto riguardava l'Europa, i suoi saggi e anche la sua critica nei confronti ad esempio della politica tedesca, e dall'altra appunto è stato uno dei più grossi fautori di un'identità molteplice, perché in realtà all'interno di ogni paese europeo ci sono tante identità. Il problema è come costruire queste identità e come trovare un amalgama tra queste identità che sono diverse. Tra non molti anni, ad esempio, Bruxelles, la maggioranza dei cittadini saranno di origine islamica. Allora, quale sarà l'identità di questa città, che dove c'è la sede della Commissione europea, però ci sono quartieri di immigrati che saranno anche residenti islamici, quindi effettivamente è un grosso problema. Allora le pongo una domanda, ne parlavamo anche prima, quindi come sempre le chiedo quella che è la sua esperienza in base anche agli studi che ha condotto finora. Integrazione, abbiamo parlato di questa dimensione che è vera non soltanto a livello locale ma anche a livello globale. Abbiamo parlato di multiculturalità, di cui Bruxelles secondo me è un ottimo esempio, come tante altre città poi in Europa e sicuramente nel mondo. Abbiamo parlato di queste identità molteplici che si diffondono in realtà come queste, dove si cerca una vita migliore, possiamo dirlo, insomma l'input, il deus ex machina è proprio quello. Però c'è un altro concetto di cui pure a Bruxelles si parla tanto, che è la diversità. Allora, in questi elementi così frastraiati, così diversi tra di loro, come possiamo costruire un'unità attraverso per l'appunto questa diversità? Allora, sono tutti concetti collegati in realtà, perché l'unità è basata e dovrebbe essere il risultato di diversità. Allora, perché l'unità va ricercata tra persone e tra culture, tra esperienze, tra mondi che sono diversi. Allora, come accettare il diverso, l'altro da noi che ci fa, che noi ignoriamo, nel senso proprio greco della parola, ignosco, cioè non conosciamo, e ciò che noi non conosciamo emotivamente ci fa paura. C'è un bel libro di un francese, Moisy, La geopolitica delle emozioni, che dice una realtà che noi molto spesso dimentichiamo, come la politica sia fatta di emozioni, l'aveva detto anche Weber, la tripartizione del potere carismatico, eccetera, però la politica è fatta dalle emozioni, cioè dalla paura, dalla speranza e dall'umiliazione. No, effettivamente è vero questo, pensiamo alla paura del diverso, no, che ormai la paura del diverso noi automaticamente, anche per quello che è successo, è l'islamico. No, l'umiliazione viene in mente in questi giorni, l'umiliazione del popolo greco, che effettivamente aveva truccato i conti quando è entrato in Europa, però è stato umiliato, non è stato aiutato, e probabilmente non c'è stata anche una programmazione del suo, diciamo, per uscire dalla sua situazione in cui era entrato in Europa. Quindi effettivamente come gestire l'identità attraverso i tre modelli classici sono quelli dell'assimilazione, che è il modello francese, il modello del melting pot, cioè della separazione, separati in casa, che è un po' il modello inglese o americano, accogliamo tutti però non li integriamo. E il modello ultimo è quello non tanto del multiculturalismo, ma quello dell'integrazione, cioè cercare di costruire insieme qualche cosa, delle identità che si rispettano, e qui ovviamente c'è anche tutto il problema giuridico, cioè il rispetto delle leggi, cioè ogni Stato ha delle leggi, no? Ha una sua cultura ma anche una sua giurisdizione, questa giurisdizione deve valere, quindi anche questa è una costruzione che deve essere fatta tra chi è residente e tra chi arriva, questo è il concetto di integrazione, un po' meno quello di assimilazione, che vuol dire invece cancellazione totale della provenienza, della propria cultura di provenienza, e quindi l'integrazione implica anche la doppia cittadinanza, ad esempio, no? Siamo a Bruxelles, quindi diciamo che forse i giovani su questo sono anche più vicini, perché i giovani, no, studiano, nascono in un paese, poi vanno a studiare in un altro, magari trovano lavoro in un altro ancora, e quindi qual è l'identità, ad esempio, del giovane? No, vediamo che ad esempio nelle ricerche che vengono fatte sull'Europa, è vero che ormai molti sono euroscettici, anche gli italiani, quelli che sono meno euroscettici sono proprio i giovani, proprio perché sono quelli che viaggiano di più e hanno più contatto con le identità altre. Allora la domanda è legittima, e non solo perché siamo a Bruxelles, perché siamo ad una domanda proprio chiave che unisce insieme a tutte queste domande, che per l'appunto è un modello. Allora, nei corridoi di questa città si sente molto spesso parlare di Stati Uniti d'Europa e Unione Federale. Quale di queste due piste lei pensa possa essere la migliore, oppure magari possiamo pensare anche a qualcosa di nuovo, un concetto che nessuno ha mai pensato? Ma intanto, Unione Federale o Stati Uniti d'Europa? Questa è una domanda che si erano posta, una domanda a cui penso di non poter io dare una risposta. Posso solo dire che alcune cose molto brevi, ad esempio che Stati Uniti d'Europa ne parlava anche Winston Churchill, no, e ne parlavano, parliamo sempre della Gran Bretagna, adesso sappiamo come euroscettica, però nella tradizione originaria della Gran Bretagna non c'era questo euroscetticismo, quindi in realtà, oppure gli Stati Uniti d'Europa ne parlavano anche Altiero Spinelli nel manifesto di Ventotene, cioè appunto una confederazione di stati. Habermas, un altro dei più grandi sociologi viventi tedesco, è favorevole agli Stati Uniti d'Europa, anche se lui dice, sappiamo che questo concetto, ad esempio, di federalismo potrebbe avere dei problemi, cambiamo la parola e diciamo un'unione di comunità di stati appunto nazionali, che però cedono una parte della loro sovranità in un progetto confederale. Quindi io credo che il problema non sia un problema di linguaggio, un problema semantico, è un problema concettuale. Se effettivamente l'Europa vuole costruire un qualche cosa di positivo, non per contrapporsi agli altri continenti, ma anche per cercare di dare un respiro internazionale, di dare una risposta di pace, che in fondo era quella, anche nei grandi teatri di guerra che ci sono, ahimè, contemporanei. Se l'Europa fosse un po' più unita, probabilmente potrebbe anche dire qualche cosa di positivo in questi teatri drammatici di guerra contemporanei. Purtroppo gli eventi recenti, insomma, anche sulla scena internazionale non fanno ben sperare da questo punto di vista. Monica, ahimè il tempo in radio, come sa, è oltremodo tiranno, però c'è ancora un momento per un'ultima domanda. C'è qualcosa che non le ho chiesto e che vorrebbe aggiungere oppure dedicare agli amici, agli ascoltatori di Radio Alma e di Bruxellando in particolare? Ma solamente un'osservazione, in questi giorni passeggiando per la città ho visto i nomi delle strade, no, e sono nomi appunto importanti, e spesso mi chiedevo, ma chissà se coloro che passeggiano e chiedono i nomi delle vie, ma sapranno chi erano Schumann, chi erano Spack, no, per dire che c'è veramente in questa città una tradizione appunto di unità europea. Non vorrei che, insomma, fosse rimasta solamente nelle scritte delle strade, che ormai qualcuno che ha un po' più di cultura o di storia se le ricorda, gli altri no. Ecco, penso che tutte le persone che abitano i grandi palazzi della comunità europea, probabilmente se si soffermassero magari qualche volta a leggere la via, il nome della via in cui il loro palazzo c'è, forse magari crederebbero di più all'unità europea. Monica, io ti ringrazio, questo mi sembra essere un messaggio veramente straordinario, soprattutto perché la pace è uno dei valori fondanti dei nostri stati e noi ci auguriamo che possa essere permanente, come qualcun altro pure aveva detto. Ti ringraziamo soprattutto perché questa è una piacevole anteprima, già che il tuo saggio è proprio fresco di stampa, quindi Europa, mi confermi, edito da Carocci? Carocci, perfetto, Roma. Quindi Carocci di Roma, e lo trovate facilmente anche online. Buon ascolto, buona settimana a tutti, e vi lascio la seconda parte di Bruxellando, martedì, Radio Alma. Cari amici, cari amiche, eccoci qua, ritornati in studio dopo la prima parte, Bruxellando Post, eccolo, Bruxellando Post che ricomincia, come ormai, siamo post-it. Come ormai avete capito, comincia un po' più tardi, comincia alle 8:30, e vabbè, bene, abbiamo delle cose bestiali questa sera, delle cose incredibili, e io non vorrei tanto... Insomma, volevo girare un po' in suspense. Che vorresti dire ma non vorresti dire. Vorrei dirlo ma non vorrei dirlo. Insomma, è stata una cosa... Abbiamo assistito ad un concerto. Un concerto interessante, che è stato veramente bello. Non me l'aspettavo così bello, non me l'aspettavo così interessante, così ricco, emozionante, anche se un po' lo sospettavo ma non credevo che sarebbe stato così, e alla fine siamo riusciti a fare qualcosa di particolare. Adesso, se il nostro regista che è in studio ce lo mette su, insomma, facciamo partire un piccolo file. E quindi, ecco amici, il piccolo file per voi. Abbiamo qualche piccolo problema in regia, si sente troppo basso, adesso stiamo riprovando con un altro file, ma veramente è il bello della diretta. È il bello della diretta, ovviamente provare i file, vediamo se questo funziona meglio. Oh, finalmente. Oh, amici e amiche di Bruxellando, questa sera abbiamo una cosa incredibile. Una cosa che mi ha toccata. Io adesso c'ho ancora le budella che mi vibrano, e adesso capirete perché, tutto il mio corpo vibra, quindi sono qui di fronte al maestro Bollani, il grande maestro Bollani. Maestro Bollani che stasera ha fatto un concerto stupendo, vabbè, è inutile dirlo, ci mancano le parole veramente. Veramente. E allora basta, finito, ciao. Sarebbe bello, ce ne andiamo tutti quanti, no? Intervista musicale però. Intervista musicale. Allora mi metto anche un po'. Come nasce la contaminazione dei generi? No, bisognerebbe chiedersi come nasce l'idea di dividerli in generi, perché in realtà una volta la musica era una sola, poi a un certo punto abbiamo cominciato a dividerla per funzioni, o per luoghi dove viene suonata, o per nazionalità, o la musica dei giovani, la musica dei vecchi, la musica da ballare, la musica da ascoltare, però a me piace la musica in generale, quindi cerco di non dividerla tra i generi, neanche quando suono io. Infatti è cominciata in un modo, diciamo così, tranquillo, cioè, doveva finire, vediamo dove va a finire, perché io ero andato a vedere Bollani, sono andato a vedere Bollani, sì, infatti si è rivelato. E come nasce allora la seconda parte, che è quella dei dischi? Ma non c'è una prima e una seconda parte, perché io inizio a suonare e vedo dove vado. Generalmente poi inizialmente il concerto inizia in versione più intima e poi si apre come un fiore, però mi sembra naturale, è un processo naturale, sta iniziando il suono dal silenzio e quindi la musica arriva lentamente. Però tutto qua, per il resto io non ho un piano preciso in mente quando faccio un concerto, per cui mi lascio andare, è il momento migliore della giornata. C'è una scaletta iniziale? No, non ho scaletta. Neanche il primo pezzo. No, mi siedo e comincio a suonare e vedo dove mi porta l'ispirazione. No, bellissimo, perché io avevo questa impressione, come se la musica fosse un fiume, siedi e cominci da qualche parte, infatti, questa è l'impressione. Perché è la cosa bella di poter suonare da soli, non devi rendere conto a nessuno, quindi di poter lasciare fluire quello che ti viene in mente, insomma. Tanto anche a strutturarla non sarebbe mica meglio, sai. Perché io sono abituato così, nel senso che sono abituato a improvvisare, per cui anzi se mi strutturassi troppo la serata non mi diventerei più io e quindi non ci diventerebbe il pubblico. E quanto il pubblico influisce sul... Tanto ovviamente, perché sai, la reazione del pubblico ti un pochino, per forza di cose ti fa scegliere una direzione piuttosto che l'altra. Io poi cerco di prendere sempre tutto quello che di positivo arriva dal pubblico, che sono lì, io sono lì a nutrirmi di energia positiva. Questa sera è arrivata l'energia positiva? Molta, c'era un pubblico molto attento, però al tempo stesso molto divertito. Sai, le due cose insieme non sono facili da ottenere. No, infatti mi stavo chiedendo, chissà se preferisce dall'altra parte un pubblico che interrompe, che ride, che applaude, o un pubblico che... No, in realtà il pubblico di stasera era semplicemente perfetto, rideva quando doveva ridere e ascoltava quando doveva ascoltare, come dovrebbe essere nella vita fra le persone, no? Se io dico una cazzata devi ridere. Se dico una cosa romantica ti devi commuovere, se piango mi devi aiutare. Sì. Allora, questa domanda che ci avevo messa sul piatto d'argento è, personalmente, io ho visto il maestro Bollani e mi sto chiedendo, c'è differenza tra maestro Bollani e l'uomo Bollani? Urca. Non lo so, ma io sono il meno indicato a rispondere, non lo so, secondo me no, però sai, devi chiedere in giro, di fare un sondaggio. Io non so, sono parte lesa, come si dice questa domanda. Assolutamente sì, è parte lesa, però la mia domanda era per Bocchetto, nel senso che per me no, proprio non c'è differenza. Cioè, quello che si percepisce dal concerto è proprio questo fluire, ma è un fluire di emozioni e sensazioni. Uno lì è vero, non può recitare, non sta recitando, sta recitando per se stesso. Nel mio caso penso che non avrebbe senso recitare, perché non avrebbe motivo. O comunque non sta... eseguendo, sto proprio vivendo la musica. No, la musica nasce sul momento, come piace a me, come piace a molti altri musicisti, non è che sono il solo a aver inventato l'idea di improvvisazione, anzi, casomai ancora una volta, a un certo punto hanno cominciato a scrivere la musica è nata con l'improvvisazione di sicuro, non c'è bisogno di consultare dei manuali o di richiedere a un etnologo, quindi no, penso semplicemente che sia molto bello avere l'opportunità di andare in giro e tutte le sere suonare una cosa diversa senza dover portare in giro un prodotto preconfezionato. Questo a me piace molto, per questo non potrei fare cantante pop nella vita, suonare in gruppo pop, perché spesso la scaletta è la stessa, l'effetto che si chiede al pubblico è quello, le emozioni che devo provocare sono queste precise, le luci si muovono sempre allo stesso modo. Quello è un altro mestiere, è un'altra cosa. È un'altra cosa, sì. Ma giustamente diceva maestro, Ferrero da solo, sì. Però suona anche con altre persone. Per fortuna. Per fortuna, anche con dei danesi. Sì, li rivedremo insieme a maestro dell'anno. Abbiamo danesi. Suonato ieri a Rotterdam e in Belgio, però non so quando. Non lo so. Però un giorno. Però il gruppo esiste sempre. Sì, sì. Il gruppo esiste sempre di Chicago. Sì, sì, sì. C'è l'idea. Sì, sì, esiste, c'è famiglia quella. È family. È family, davvero. No, un'altra domanda, io ne avrei un sacco, ma non voglio. Troppo. Beh, noi sosteniamo tutto, ci sostiene Bollani, lo sosteniamo, lo rivorremmo. Facciamo forse, però non esattamente quel programma, ma un'altra cosa su Rai 3. L'anno prossimo sempre con la Luzzanti Junior? No, non si sa ancora con chi vedere. No, perché è gennaio, io non sto ora a marzo a pensare a quello che faccio a gennaio. Gennaio è un po' troppo in là nel tempo. Un po' troppo in là. Però lo faremo, insomma. Bene, perché quella è una trasmissione che hanno seguito in un sacco di persone. Nonostante l'orario, sì. No, qualcuno la registrava magari, però era troppo bella, era veramente una. Lì ho visto, e lo voglio ribadire, questa è la quarta volta che lo dico, il maestro Bollani, c'è qualcuno che insegna, ma non che si mette sulla cattedra, che scende dalla cattedra, ma imparare, no, è stata una cosa condivisa, perché è una cosa veramente bellissima. E i programmi per il futuro? Programmi per il futuro, quest'estate vado in giro, ma non qui, con un progetto su Frank Zappa, a cui ho dedicato un disco e poi tante altre cose, ma sto pensando a impegni qua da queste parti, ma mi sembra di no, quest'estate neppure per ora. Allora, magari in autunno. Teniamo. Noi eravamo già comunque orientati, che già l'anno scorso attendevamo trepidanti, poi è successo. Sì, è vero, sì, l'anno scorso ho tirato un bel pacco. Può succedere. Ovviamente, ma no, è arrivato l'estate. Insistiamo. Non può andarci male due volte su due. Frank Zappa, mi viene in mente una bellissima canzone di Frank Zappa che c'è. Tengo la mente così, bello. Devi usare un pollo se la vuoi misurare. È un gran pezzo. Chiudiamo su questo pezzo. È vero. Io non posso fare altro che ringraziare finalmente Maestro Bollani per quello che ci ha fatto stasera e sicuramente la prossima volta ci rivedremo, magari facciamo un'altra intervista. Sì. Perché no? Vediamo se dico le stesse cose o mi contraddico. Contraddirsi è umano. Sì. Sarebbe bello. Perseverare diabolico. Grazie infinite. Grazie, è stato un grande piacere. Ah, la figura. Ecco. Mentre Radio Alma. Sì, Radio Alma. Bruxellando. Ciao Radio Alma. Ciao Bruxellando. Ciao da Stefano Bollani. Grazie, perfetto, grazie. Una cosa incredibile, amici, ecco, se ne sta andando in questo momento, sta andando a salutare i suoi amici e noi abbiamo offerto questa chicca, stupenda chicca, veramente rimane così, questa bolla, questa cosa stupenda che ci ha regalato, queste emozioni che ci ha regalato, la sua musica è proprio come un fiume, come hai detto giustamente Fiordaliso. Uno si ferma, si siede sulla riva del fiume, vede quello che sta passando e prende il primo tronco e scorre insieme al tronco lungo il fiume. E con questo noi vi salutiamo e ci sentiamo la prossima volta. Ciao! Ed eccoci qui, insomma, sentivate nel sottofondo quello. C'era il rumore della gente, ed ecco questa piccola chicca. Siamo riusciti a intervistare il maestro Bollani. Non mi stancherò mai di dirlo, perché mi piace proprio dirlo, perché rende l'idea si di sente, chi è. Si sente, si sente, l'hai ripetuto varie volte. Questa è la quinta, adesso dirò che il maestro Bellani sei. È veramente un personaggio tutto tondo, un personaggio a 360 gradi. Non una sono grande musicista. Chicca, ragazzi, grazie. È una bella sorpresa, sì. Una bella sorpresa, una bella disponibilità, per cui ringraziamo e non so se ci sentirà, ma se ci sentirà lo salutiamo anche in diretta dai microfoni e li ringraziamo per sì. Questa bella intervista. Anche perché insomma ha accettato di farla con questo audio che andava e veniva, la qualità audio non era il massimo, si sentiva molto in fondo, c'era qualche rumore in più, però vabbè. Come sapete noi Radio Alma siamo dei volontari, quindi abbiamo a volte dei mezzi limitati, ma nonostante ci siano dei limiti nei mezzi riusciamo a fare delle cose come questa. Che io sappia nessuno ha intervistato Bollani, quindi almeno a Bruxelles, e neanche in italiano forse, chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa, questo non lo sappiamo, magari facciamo le ricerche. Potremmo fare una ricerca, ma io ho dei dubbi. No, così ho dei dubbi su. Comunque, che l'abbiano fatto, l'abbiano fatto. Questa è l'intervista che ha fatto e ha donato a Radio Alma. E certamente siamo presi anche i suoi saluti. E certamente ti terremo stretti. Ma vorremmo anche darvi un po' di notizie poi sul futuro di Bollani. Quindi, magari sul blog andateci a vedere il blog di Bruxellando su radioalma.eu. E magari vedremo qualche informazione sui prossimi concerti di Bollani. Per fortuna è il sito ufficiale, quindi possiamo sempre riferirci. Assolutamente sì. Assolutamente a quello. E noi siamo, cioè, vi porteremo comunque, questo weekend era molto ricco in eventi perché c'era anche il Museum Night Fever, quindi vi riserviamo ancora delle belle sorprese su quel che è passato durante quella bellissima notte. E per il momento forse passiamo a Librangolo. Tu dici? Ma sono le 20:44. Pil, forse è il tempo di passare a Librangolo? Librangolo time. Librangolo time, bello, lo cominciamo, lo facciamo alla Bollani. E com'è? Librangolo. Grazie per questa introduzione. Allora, io stasera pensavo di portarvi qualcosa di leggero, un po' di Librangolo gossip, che non l'abbiamo fatto da un sacco di tempo, il gossip. Oh, no, certo, è vero, un po' di gossip. Anche se per me molto spesso questi gossip non sono necessariamente su delle vicende attuali, sono piuttosto, diciamo, dei gossip su tempi passati, su dei gossip un po' dimenticati, diciamolo, cioè, così. Gossip retrospettiva. signori e signori, questa sera gossip retrospettiva. Ecco, cioè, per esempio, a me intrigava sempre sapere chi fra gli autori conosciuti un po' internazionalmente riconosciuti abbia vissuto a Bruxelles. E forse vi ricorderete che tanto tempo fa, per esempio, abbiamo parlato di Charlotte Brontë, sua sorella, che hanno trascorso sì. Un bel po' di tempo qua a Bruxelles. E purtroppo nulla è rimasto perché l'hanno coperta. Nulla è rimasto, però se voi le volete pregare nello stesso posto dove lei ha pregato, quello si può, perché lei andava alla chiesa protestante che è giusto dietro il museo Magritte. E quindi quello è rimasto e faceva un sacco di camminate nella Park Royale, anche quello è rimasto sì. Ed è riconoscibile addirittura. Quindi, è solo la sua via che è scomparsa, anzi è stata coperta perché si può ancora visitare. Io consiglio a tutti di andarla a visitare perché si va nei sotterranei della Casa Reale, del vecchio castello, del vecchio palazzo reale. Esatto, e insomma vale la pena andare dentro per vedere questa strada che a un certo momento sparisce e viene inghiottita dal tetto. Sì, quindi di questo abbiamo già parlato, vi abbiamo già presentato yes. La vita di Charlotte a Bruxelles, vi abbiamo anche accennato che Puccini purtroppo morì qua a Bruxelles. Sì, a Place Blicard. A Place Blicard, esattamente, che cercava di sottoporsi a delle cure contro il cancro, però era oramai troppo tardi. E quindi proprio in questi giorni mi sono imbattuto in un altro personaggio che è stato a Bruxelles e che io non sapevo che ci fosse stato, che è Alexandre Dumas. Oh, Oh, l'autore dei Tre Moschettieri, e mi chiedevo immediatamente, ma che cosa faceva a Bruxelles? Quello che ci faceva Audrey Hepburn, dovevo dirlo. Dovevo menzionarla Audrey Hepburn. Dovevo menzionarla Audrey Hepburn, non c'entra niente. Magari, ma non è esattamente la stessa cosa che faceva. Comunque, mentre ho cominciato a cercare ma che cosa faceva qua Alexandre Dumas, ho anche scoperto che era comunque un personaggio assolutamente degno di gossip. Assolutamente. Cioè, lui... Was ist das? Lui aveva la madre che era schiava sull'attuale Haiti. Era schiava da Haiti. Da Haiti, esatto. E il nonno l'ha sposata e ha portato lei e suo figlio in Francia e ha liberato il figlio. Già questo, cioè, capisci? Ho liberato mio figlio. Ecco, ha liberato suo figlio dalla schiavitù, cioè. Sì. Sì. Il padre di Alexandre Dumas, quindi, è diventato il primo generale francese con delle roots, con delle radici afro-caribbiane, diciamo così. Mm-hmm. Esatto, quindi già questo, diciamo che è una notizia abbastanza degna di gossip. Beh, sì, è interessante, no? Sì, cioè, non lo sapevo, cioè, proprio non avevo nemmeno la più pallida idea. Poi Dumas ci ha aggiunto del suo, nel senso che era un vero Don Juan, che si dice che abbia avuto 40 donne e ha 4 figli accertati, ma tutti da diverse signore. E anche Alexandre Dumas il giovane, l'autore della dama alle camelie, con le camelie. La signora delle camelie, scusate. Cioè anche il giovane Alexandre, cioè l'autore, anche lui era un figlio illegittimo dopo riconosciuto, eccetera, che ha preso il nome Dumas. Ecco, cioè, ditemi voi. Poi, in più era un gran spendaccione. Era un gran spendaccione e quando c'era il coup d'état da parte di Napoleone III, lui è scappato dal paese dicendo a tutti a destra e manca che sta scappando per motivi politici, ma veramente lui stava scappando dai suoi creditori. E dove è scappato? Personaggio. E dove è scappato? A Bruxelles. Ah, è scappato a Bruxelles. Sì. Cosa vorremmo dire? Cosa vorresti insinuare? Che Bruxelles è la patria... Non lo so, dei frodatori, l'unica cosa che voglio insinuare è che Bruxelles era vicino a Parigi, anche allora, si parlava francese. Cioè, non si è spostata territorialmente, vuol no, dire. No, okay. Si parlava anche allora francese a Bruxelles e quindi era un rifugio molto, ma molto comodo per qualsiasi autore o francese, per qualsiasi ragione stesse scappando da Parigi. Beh, se proprio devo essere onesto, non solo allora si scappava facilmente da Parigi per venire a Bruxelles. Direi che anche oggi hanno cercato di mettere gli argini, ma non voglio parlare di fiscalità. No, lasciamo stare. Quindi ha vissuto a Bruxelles per 2 anni, a partire dal 1851, e viveva su Boulevard de Waterloo, il numero 73, che purtroppo la casa è stata demolita nel 1976 con la solita previdenza del... Ah, bene, bene, mi piace questo. Sì, continuiamo il gossip, vedi, è tutto gossip. Ma un altro gossip su Dumas, cioè, è che si atteggiava tipo come un grande pittore, sai, i grandi pittori avevano sempre le atelier. Ah, sì, certo. Allora, lui aveva l'atelier, non è che scriveva tutto lui, Aveva un ghostwriter. Cioè, praticamente aveva dei ghostwriter, un intero ufficio di persone che lo aiutavano con i suoi libri, a sviluppare le idee. Addirittura. Dimmi almeno che era un fan di Rembrandt. Questo non lo so, purtroppo. Questa informazione non ce l'ho. Però, in particolare, lui c'aveva un collaboratore che si chiamava Auguste Maquet e che gli preparava delle idee di romanzo e delle bozze. Addirittura è stato lui a venire con l'idea del Conte di Montecristo. Alla faccia. Abbiamo detto niente. Abbiamo Ma detto guarda niente. Te cosa si scopre di Alexandre Dumas. Vedi, praticamente quello che Dumas faceva era aggiungere i dettagli, i dialoghi, il finale, i capitoli finali. Altrimenti un sacco delle cose che noi troviamo nel libro, ovviamente, cioè, con i dettagli, i dialoghi e i capitoli finali abbiamo detto comunque tanto, cioè sì, i dettagli, sì. Cioè è una cosa scrivere un paio di idee, ok, vorrei che la storia si sviluppasse così, e un'altra proprio svilupparla, quindi non vogliamo, non è che vogliamo dire che Dumas non era un bravo scrittore, piuttosto stiamo dicendo che si appoggiava dei collaboratori, e quei collaboratori a volte proprio apportavano proprio l'idea base, il che di nuovo non era poco. E effettivamente il povero Auguste Maquet ha cercato anche di portarlo in giudizio per rivendicare un po' di gloria, ma ha perso la causa il poveretto, e quindi ha ricevuto più soldi ma non ha ricevuto il menzione d'onore. Cioè, nel senso, non è stato menzionato come coautore, cioè non è riuscito ad ottenere di far... E come si chiamava? Chi? Il ragazzo Auguste Maquet. Beh, almeno la storia gli ha restituito qualcosa. Auguste Maquet, quello che ha scritto insieme ad Alexandre Dumas, o ha scritto almeno una parte di un libro di Alexandre Dumas, se non sbaglio, Il Conte di Montecristo? Conte di Montecristo, sì. Vabbè. E comunque, cioè, vi devo anche dire la ragione per cui ho cominciato ad imbattermi nel fatto che Alexandre Dumas avesse vissuto a Parigi. La ragione è che il castello di Alexandre Dumas, che lui aveva fatto costruire con un sacco di sperpero di denaro, dove viveva in modo lussuoso e oltre delle sue capacità finanziarie, attualmente dovrebbe essere rinnovata, è un bel castelletto di stile Renaissance. Und wo ist? Und wo ist, naturalmente, in Francia. Ma il problema è che lo Stato francese non ha abbastanza soldi per rinnovare il castello. Questo va detto in silenzio, non possiamo dire che lo Stato francese non ha soldi. Va bene, no, va bene, sussurriamo. Che se no se ne accorgono. Esatto, se ne accorgono, esatto. Ma se ne sono ancora accorti, addirittura c'è una colletta per poter diciamo aggiungere un po' di soldi, quindi c'è una colletta pubblica. Saint-Sulpice, incroyable. Sì, incroyable, esattamente. Cioè, ci vorrebbero 1 milione di euro, la colletta è arrivata a 3.000, quindi ancora un po' di fare. Questa non so dove è trovato, secondo me il sito dovrebbe rivedere un po', non si può dire, è rimasta una colletta, mi sono date 3.000 euro. No, comunque noi faremo la nostra parte, abbiamo incluso la storia in Bruxellando, il Librangolo Gossip per essere precisi, quindi vediamo se... Beh, insomma, signore e signore, se avete proprio un 50 euro che vi escono dalle tasche, o siete dei fan di Alexandre Dumas, cosa che non dubito esista, perché insomma Alexandre Dumas è un grande scrittore, e ovviamente anche se Auguste Maquet, non ha ricevuto i suoi riconoscimenti, beh, sarebbe come dire che Rembrandt, che aveva anche lui la sua officina, non fosse stato un grande pittore. No, questo non si può dire. Non si può dire. E quindi se avete 50 sacchi, beh, vedete di investirli se vi va. Nella rinnovazione, nella restauro del castello di Montecristo, perché lui comunque l'ha chiamato il castello di Montecristo, e ha fatto anche un secondo edificio che era il suo atelier, e che invece chiamava il castello di If. Il castello di If? Ragazzi, esiste, io ci sono stato, è nell'Île d'If ed è di fronte a Marsiglia, un posto quello stupendo, è quello vero, quello un vero. Posto stupendo, sì. Ma quello l'Île d'If è un posto stupendo, comunque, ma... esiste ed è bellissimo, andateci. Esiste anche If, che è uno della famiglia, qualcuno conosce la famiglia? If vi dice niente? Mi dispiace, sono ignorante. The Hand ti dice niente? Quello comincia a dirmi qualcosa. Eccola, un po' di musica. Taradara, taradara. È la famiglia Adams, anche lei, c'è If, ma non credo che si riferisse nemmeno a quell'If, visto che è arrivato un po' dopo. Chissà se invece l'If di Adams aveva un qualche riferimento a Alexandre Dumas. Chi lo sa? O all'If, chi lo sa? Comunque, Tempus Tyrannosaurus Rex, cioè il gossip, cioè praticamente io avevo ancora un pezzo di gossip e non riesco più a dirvelo. Beh, tienilo in caldo, perché a me piace il gossip, devo essere onesto, mi piace il Librangolo serio, ma mi piace anche il gossip. Sì, dai, ogni tanto gossipiamoci un po'. Ma assolutamente sì, gossip bisogna farlo. Facciamo anche del gossip sull'Europa? Io avrei tanta voglia, devo dire, di fare un po' di gossip d'Europa. Che ne dici? Facciamo un po' di gossip su parlamentari. Gossip serio o poco serio? No, gossip poco serio. Allora stai parlando. Stai parlando secondo il mio cuore, come si dice nella mia lingua. Sto parlando seguendo le linee del tuo cuore, i battiti del tuo cuore. Esatto. Questo non sarebbe mica male come idea, ci penseremo. A Bruce Lando vi propone sempre cose nuove. E intanto comunque vi porteremo altri librangolo gossip presenti e passati. Ah sì, Ah sì, Meno male, io ci conto. Perché mi sono parecchio divertito. Sì, ho capito. Tyrannosaurus, Rex, eccetera, diplodonte. E allora, signore e signori, purtroppo il...